Eccoli qua, insieme Mihajlovic e Zenga. Che bello così. Cosa stava dicendo Mihajlovic a Zenga fuori onda? Così magari facciamo il confronto in onda. Che è una mezza sega. Ecco. Beh, l'altra metà è lui, così facciamo un'intera. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Poi da Bo, serie di gol di testa, Chiafuoco che lo può calciare da lì, ce l'ha questo colpo! Sergio Floccari da 30 metri, 2-0 per la SPAL. Palla dentro, colpo di testa vincente e arriva il 4-0 con Gagliardini che ha trovato il primo palo e qui un sorriso liberatorio. Ibra sul secondo palo, lo cerca Saramacher, la palla intelligente e arriva sulla palla intelligente l'autogol di Vicari che rovina una partita eccezionale. Cambiando così in maniera massiccia non cambia l'idea, non cambia, ognuno dei miei calciatori sa che cosa deve fare, orgoglioso e contento di lavorare con questi ragazzi, se lo meritano. È vero, ci aspettano tre partite molto, molto difficili, ma allo stesso tempo molto, molto stimolanti, quindi adesso dobbiamo recuperare energie e farci trovare pronti, perché abbiamo le possibilità e le qualità per tenere testa a avversari così forti come saranno Lazio, Juventus e Napoli. Non ci posso credere! Non ci posso credere! Il carne e ossa, qui come fai più carne che ossa, devo dire la verità. Ma tutto quanto. Le ossa sono sopravvalutate rispetto alla carne, che invece, insomma, diciamo, abbonda. Quanto mi sei mancato? Saranno fisicamente saranno più di tre mesi e mezzo, sì, ci vediamo, no, incredibile. Un'eternità, non facciamolo mai più. Puoi anche dire sbaglio, sei dimagrito, sbaglio, classico. No, sei in grandissima. Ma io condizione. Ho tenuto meglio durante il lockdown che a fine lockdown. Ho capito proprio quindi che il metabolismo, cioè che in realtà il lockdown quasi, non dico che dimagrivo, ma. Quindi di persone il radio tweet di oggi qual è? Oddio, non ci ho pensato a dire. Lo sapevo io, ero emozionato. Non ci ho pensato, al piacere di essere qui, dai, che secondo me questo per estensione è il più sarà il più bello dei radio tweet. Sarà il piacere poi di rivedere il pubblico degli stadi, una cosa sulla quale insistiamo da tempo, una cosa che insomma in questi giorni di prime telecronache si sente tantissimo, nonostante i fondini virtuali, nonostante le belle iniziative benefiche, i video, i tifosi l'altro giorno, quelli della Lazio che cantano l'inno, le campagne dell'Inter, le partite che ho seguito, ma ovviamente anche di tutte le altre squadre, però insomma è un'altra cosa e dai, succederà presto, io sono ottimista. Senti, un giorno facciamo venire anche Franco Ordine e Fabrizio Gasini. Ciao ragazzi! Saluti. La festa è completa. Il mio vecchio zio che faceva il cardinale a Foggia mi diceva sempre. È un po' Uriemma anche qua, però. Sì. Anche un si confererete, ci fai battere il cuore, Franco. Ce lo prendi questo cuoricino e ce lo fai scoppiare di gioia per il Napoli. Sto perfezionando le imitazioni. No, ma quello è perfetto. Buona Uriemma. Perfetto. Senti, ma Ciccio, solo nel calcio ti trovi a dover spiegare che è un, come dice Sacchi, è un gioco, non è uno sport. Ti trovi a dover spiegare che il Milan non ha giocato una così pessima partita contro la SPAL, penultimi in classifica, in 10 dal 43esimo e segnando al 94esimo il gol del pareggio. No, io non faccio nessuna fatica e penso tra l'altro di parlare a un pubblico molto maturo, dalle reazioni che ho avuto oggi sia su Instagram che al pezzo giornale, colgo con una grande adesione e una grande condivisione dei miei giudizi. Ma perché non può essere diversamente? Secondo me ieri c'è stato un peccato clamoroso di presunzione. E quindi che è stato pagato a caro prezzo, un po' perché i due gol sono due gol che se tu riproponi 157 volte la stessa condizione per 158 volte non succede nulla, e invece poi è successo che becchi 2-0 e vai sotto e poi succede quel che succede. Io devo dire francamente che però al di là di tutto è l'idea complessiva di una squadra che non è ancora strutturata nella testa, nelle gambe e soprattutto nel progetto futuro, sì, che è la cosa più allarmante di tutti. Sì, viaggia nell'attuale classifica. Beh, ma il Milan naviga un po' alla cieca, Pierre. Sì. Va lì, va, non ha particolari obiettivi, va bene, l'Europa League se ci arriva, ma se non ci arriva non c'è nessuno che fa... non eccita nemmeno il portiere di Milanello l'Europa League. Però questo, scusami, è una forma di provincialismo che dobbiamo combattere, nel senso che l'Europa League non sia la cosa più sexy del mondo del calcio, questo non c'è dubbio, però che sia meglio e che quasi sia un obbligo per una società come il Milan andare in giro per l'Europa, questo mi sembra fondamentale, soprattutto per il suo bilancio, ma anche per la sua storia, insomma, per quello che è, per quello che il Milan rappresenta. Quindi no, da questo punto di vista sai che secondo me c'è stata sempre un po' di sottovalutazione italiana dell'Europa League, che io trovo in partenza, adesso sta un po' migliorando, tanto che Fabrizio, se la tanto mal sopportata fino a qualche mese fa Europa League può diventare l'oggetto che dà un senso compiuto alla prima stagione di Conte. Decisamente sì, perché sperare di acchiappare Juventus e Lazio è praticamente impossibile. In realtà c'è questa competizione che invece ti può non solo salvare la stagione, ma può dare un senso anche a tutto il resto, perché comunque sia l'Inter sta macinando punti. Questa cosa può non piacere ai critici, però il dato di fatto è che anche ieri il gruppo si è ben comportato. Se riesci a infiocchettare tutto con, non dico la vittoria dell'Europa League, ma quantomeno il tentativo di arrivare fino in fondo a una competizione, allora hai creato qualcosa di solido. La cosa che non deve passare anche in casa Milan è la cosa del chi se ne frega, vabbè quest'anno va così, chi se ne frega, no, uno deve giocare tutte le partite sperando di fare un passettino in più, anche se quel passettino non ti porta alle vittorie. Lo so, Fabrizio. Se l'Inter consolida il terzo posto e magari prova a dare fastidio al secondo, comunque ha fatto qualcosa. No, ma ieri ho visto, poi bisogna capire la consistenza reale del Brescia, devo dire la verità, perché veramente una tara l'ha fatta. Il Brescia ieri l'ho visto in una condizione molto molto brutta, e fra l'altro una squadra che alla fine del primo tempo sotto 3-0 legittimamente toglie il suo migliore attaccante perché pensa giustamente alla partita col Verona di domenica, e insomma, ti dà il senso di quello che è stato l'Inter Brescia di ieri. Però ecco, ripeto, al netto di tutte queste tare e della debolezza dell'avversario, ieri ho visto tante cose interessanti. Ho visto una squadra veramente Premier League, con tanti giocatori, ex giocatori della Premier, anche recenti, di alto livello. Ho visto Moses in condizioni fantastiche. Mi sono reso conto, senza che diventi un alibi, quanto sia mancato Sanchez durante la stagione, perché veramente... E poi ne parliamo, perché è una delle cose che ha fatto discutere. Anche soltanto in termini di rotazione con Lautaro e Lukaku, insomma, se ce l'avesse avuto a disposizione, forse qualche punto in più adesso l'Inter. Ma vista dal vivo, ieri l'hai commentata, vista dal vivo l'Inter in che condizioni fisiche è? Buone, ma ripeto, bisogna fare un po'. Cioè, cara sul Brescia, dici. Ragazzi, una partita così, col Brescia che ha una palla gol dopo 3 minuti, la spreca, va sotto 1-0 al quinto minuto, va sotto 2-0 al ventesimo, praticamente la partita è finita lì. Poi l'Inter ha giocato, si è divertita, ha fatto gol, ma ha dato un'ottima sensazione, appunto. Ecco, questa è la cosa più interessante, secondo me, di tutte. E cioè, al di là del fatto che persino Moses, comunque, che ha fatto un gol straordinario, strepitoso, ma ha commesso anche qualche sciagurato errore prima Young, e dopo. La cosa più bella di tutte, secondo me, è proprio questa. E cioè una squadra che vedi che si diverte a giocare. Cioè non ha dentro, come dire, uno spirito particolare, che è uno spirito molto... inglese da questo punto di vista calcistico, e devo dire questa è la cosa più intrigante del successo, che ha ragione Pierre, il Brescia è durato 3 minuti. Poi volendo Franco, si può anche notare che tutte le cose migliori sono venute da quelli che saranno i nuovi territori di Hakimi. Questa essere un'ulteriore suggestione. Ma c'è anche tra le cose positive Conte, non so se poi Fabrizio lo interpreta come un segnale positivo, intanto ve lo faccio sentire, che ha ricominciato a fare il malmostoso. Ma no, ma le indicazioni positive, chi guarda l'Inter ce ne sarebbero tante. Il problema è, come ho detto prima, bisogna vedere se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto. Per l'Inter spesso e volentieri si vuole guardare il bicchiere mezzo vuoto e comunque creare delle problematiche, però questo fa parte del gioco, non c'è nessun problema che vadano su di me eventualmente determinati attacci e non su calciatori, ecco, o sul club. Ha parlato anche di Sanchez, sentiamo anche questo. Non dimentichiamo che noi Sanchez non l'abbiamo mai avuto quest'anno, abbiamo avuto qualche partita all'inizio e nessuno considera il fatto che noi comunque abbiamo fatto tre quarti di stagione con solo due attaccanti e con Esposito, che è un ragazzo, cioè fino adesso ha giocato Sanchez, ha giocato col Sassuolo, ha giocato tutte le partite che c'erano da fare, cioè il problema è che adesso tu ce l'hai, prima non ce l'avevi, quindi non è questione che uno può avere più spazio. Cioè, o se i giocatori ce li hai, li puoi dare spazio, ma se non ce li hai, come fai a dare lo spazio? Questo è che mi viene da ridere a me quando sento queste cazzate. Ecco. Un segnale positivo o negativo, Fabrizio? Più che positivo, cioè io mi spaventerò quando sentirò Conte dire sì, vabbè, va tutto bene e non ci sono problemi. Cioè, quando Conte fa Conte, invece, mi fa capire che è sul pezzo. E devo dire che questa cosa l'ho vista anche nei giocatori, cioè alla fine della partita di ieri, ho visto pochi sorrisi e tanta, definiamola, rabbia agonistica, perché sono piovute sacrosante critiche dopo la vittoria di Parma all'ultimo secondo, però il dato di fatto è che poi l'Inter da quando ha ripreso ha fatto due pareggi e tre vittorie, eppure sono arrivate mille critiche, in tanti casi anche giuste e doverose, ci mancherebbe altro, però la sensazione è che questo sia un gruppo che è sul pezzo, no? Per qualcuno era già in vacanza. Ha sbagliato solo la partita col Sassuolo, dove forse ha sbagliato anche Conte con un eccesso di turnover, e non dimentichiamoci che l'Inter ha più punti dell'anno del triplete. È chiaro che i paragoni a distanza di 10 anni non hanno nessun significato, però insomma la stagione dell'Inter, io lo dicevo una settimana fa, quindi non è che ho cambiato idea, cioè, secondo me c'è un eccesso di critica nei confronti dell'Inter da parte di chi si aspettava tutto e subito. Questa è una squadra, non è nemmeno comparabile questa stagione con la precedente. Un anno fa l'Inter ha conquistato la Champions all'ultimo minuto grazie a una traversa, adesso teoricamente è ancora in corsa per il titolo. La differenza rispetto alle altre due sono state, e non è un dettaglio ovviamente, gli scontri diretti. Sì. Scusa Pier, secondo me l'eccesso di aspettativa non è tanto nei confronti dell'Inter, è nei confronti di Conte. E nei confronti di Conte c'è un surplus di invettiva, di critica, di polemica, di insoddisfazione, la cui origine prende spunto dal suo essere stato juventino. Poi questo sentimento, e Fabrizio ne può dare testimonianza, in una parte cospicua del popolo interista è molto presente. Sì, no, ma il dato di fatto è che gran parte della critica non vede l'ora anche di rompere le scatole all'allenatore più pagato della Serie A, e posso anche capire questa cosa, no? Allora, io a Conte sinceramente non rimprovero nulla, nel senso che io vedo una grande crescita e queste sono le cose che servono per poi provare a vincere, magari l'anno prossimo, non lo so. Diciamo che la cosa che non ha funzionato sono gli scontri diretti, cioè la Juventus, che quest'anno qualcosa ha lasciato qua e là, i due scontri diretti con l'Inter li ha stravinti. Fabrizio, se tu pensi che bastava vincerne uno, se tu vincevi uno scontro diretto, in questo momento eri a meno due dalla Juve, facevi tutt'altri ragionamenti. Ha ragione Fabrizio. L'unico deficit attuale della gestione Conte, l'unico, è l'eliminazione dal girone iniziale di Champions. Quello è l'unico, perché poi il resto, una partita in più, una partita in meno, su quello si può... Però Ciccio, guarda che se ti ricordi all'inizio dei giochi eravamo in tanti, me compreso, a dire l'Inter può essere l'anti-Juventus. Adesso, non possiamo dire che... Ma io per primo, ma perché io facevo sulla carta l'addizione semplicissima, e cioè mercato come si deve, più il numero uno degli allenatori, uguale possibilità di vincere. Ho capito, invece no, è staccata, ma la differenza la fanno quei due confronti diretti, la fanno le partite contro le grandi, e ci mettiamo insieme anche il girone di Champions. Allora è difficile dire che l'unica pecca è stato quel girone di Champions, che era difficile ma si era messo bene. I risultati fin qui è l'unica pecca. Era anche un girone che è stato definito al momento del sorteggio il famoso girone della morte, cioè questo non va dimenticato. Poi sicuramente l'Inter poteva giocarsela meglio, è stata molto deludente nell'ultima partita contro il Barcellona, perché è vero che il Barcellona non ti ha regalato nulla, come giusto che sia, ma è anche vero che si è presentato con una formazione sicuramente di livello più basso rispetto al solito, esatto, quindi sicuramente lì sono stati fatti degli errori. Però, insomma, francamente, si poteva far meglio. Si poteva far meglio lì. Comunque, si poteva far meglio, secondo me, all'inizio del 2020. L'inserimento di Eriksen è stato un inserimento non particolarmente veloce, molto faticoso. Cioè, ci sono delle piccole cose. Ci sono, secondo me, delle piccole cose che possono essere riprogrammate. Il senso complessivo della stagione, però, ad oggi, secondo me, è positivo. Anche perché bisogna mettersi nella testa di chi caccia i soldi, cioè della proprietà. Cosa chiedeva la proprietà al primo anno di Conte? La vittoria dello scudetto? No, chiedeva di passare il turno in Champions, e lì effettivamente hai fallito, però hai la carta di riserva, no? Se puoi arrivare in fondo all'Europa League, allora puoi mettere a posto. Dall'altro punto di vista, a Conte veniva chiesta una qualificazione molto comoda alla Champions League, e devo dire che su questo ci siamo. Sì. Senti, invece sul fronte Milan c'è un'area da così vista dall'esterno, da fine scuola, da ultimi giorni, tra Pioli, Ibrahimovic, Maldini, tanti ai saluti, e soprattutto non si sa se quale sarà la scuola frequentata l'anno prossimo, Ciccio. Eh sì, ma infatti questo secondo me è, diciamo, l'alibi, lo scudo dietro il quale si nascondono in questo momento sia Elliot che Gazzidis, e cioè la famosa frase: si decide tutto a fine stagione. Ma no, perché non è possibile, perché è in questi giorni, in queste settimane, in queste ore che si costruisce il Milan del futuro, anche perché tra la fine di questa e l'inizio della prossima non ci sono i classici tre mesi, e ci sono poche settimane, quindi devi arrivare al 2 di agosto, quando finisce ufficialmente la stagione. Ma sì, ma dai, ma magari, ma non lo diranno a noi. Sapete cosa non capisco? Io non capisco, tutte le grandi società hanno sfruttato questa situazione, cioè il 30 giugno, per fare delle cose, no? Sì. La plusvalenza, l'acquisto, questo, quell'altro, perché serve tantissimo a livello di bilancio e anche per costruire la prossima squadra. Il Milan non ha fatto niente. E io non capisco, non ha fatto niente. Ha fatto Salemaker, che dà l'idea del profilo. Sì, ma basta, però allora Franco, se non sanno se davvero pensano di decidere a fine stagione, cosa che io non credo, sono dei pazzi, non credo siano dei pazzi, credo che le idee le abbiano. E continuo a pensare, Salemaker, tutti quelli che vuoi, però non esiste una squadra che può seriamente ambire alla Champions. Certo, fatta solo di ragazzini di prospetto, hai capito? Carlo, io sto dicendo il contrario, cioè sto dicendo che loro hanno preso e prenotato il tedesco, ma in questo momento non sappiamo ancora se ufficialmente. Le voci di dentro mi dicono che arriva, ma vuole fare il direttore tecnico generale di tutta la squadra, di tutte le squadre, e non vuole fare l'allenatore, il che vuol dire che devi prendere un allenatore che deve essere in sintonia con lui, e vuole uno staff italiano, perché si rende conto che non può portarsi uno staff straniero. Allora io dico, tutte queste, certo, oggi non possono dire, allora abbiamo definito casella 1, casella 2, casella 3, casella 4, ma è evidente che sono da ammirare coloro i quali, sapendo di essere a fine mandato, continuano a stare sul pezzo, tipo Maldini ieri sera. Di sicuro, di sicuro, ma no, ma hai ragione, ma è così, è così, è così. E alla fine anche Ibrahimovic, che è rientrato di corsa dall'infortunio, va così, magari è Actor Studio, però è sembrato partecipe, no? Come guardava i giocatori sul 2-0. Io uno così me lo terrei. Ma tutta la vita. Tutta la vita. Domani mattina gli tutta la vita. Però cosa decidono a monte? Cioè, stanno prendendo in considerazione la cosa o no, ne riparliamo? Assolutamente no. Ragazzi, Pier, secondo te può bastare? Con la scusa del costo del contratto, che sarebbe 6 netti, quindi 12 per il bilancio. Vabbè, ho capito, quindi ma due soldi devi pur spendere, perché non puoi sempre fare le cose gratis. Pierluigi, può bastare secondo te la Lazio senza punte per questo Milan? Beh, allora, la Lazio senza punte è un'altra ulteriore prova di maturità di questa squadra, che però quest'anno ne ha offerte 10.000 di prova di maturità. Io penso dipenderà molto dal Milan, cioè se il Milan scenderà in campo con un approccio tosto, per la Lazio non sarà facile, è una buccia di banana molto pesante questa. Però la Lazio ha una forza mentale, una capacità, lo diciamo spesso, insomma, di non scomporsi mai, di affrontare ogni situazione con la grande tranquillità. Cioè, non è una squadra che non va in difficoltà, è una squadra che va in difficoltà e supera le difficoltà. La quantità di rimonte, di vittorie negli ultimi minuti, È troppo grande per poter pensare che sia un caso o una botta di fortuna. Una partita o due, una volta, due, tre, quattro, ma poi. Ma invece questa è una squadra che in qualsiasi situazione si mette lì. E devo dire che forse ha pagato, paradossalmente col senno di poi, ha pagato a Bergamo. Cioè a Bergamo ha pagato un approccio invece un po' entusiasta alla partita. Ha giocato una mezz'ora incredibile, poi l'Atalanta in questo momento la squadra ti può mettere in difficoltà. Mi sembra che dalla partita successiva Inzaghi sia lì a centellinare le forze, però con una forza mentale della squadra enorme. Per me è una partita equilibrata, cioè io non credo che il Milan sia battuto in partenza. In che cosa sono curioso di vedere sabato? Non so se poi farà così. Chi giocherà... chiederà come secondo attaccante a fianco di Correa, perché Milinkovic-Savic mi sembra abbastanza la soluzione, sì, più di buon senso, non è che ne vedo avevo sentito anche di una pazza idea, quella di mettere un difensore con i treccioni davanti, Lukaku. Che c'ha un bel fisicone, per osmosi ha imparato dal fratello anche. Fa una telefonata, dammi due consigli, dimmi due cose. Piero, buongiorno da Piacenza. Sì, buongiorno a voi tutti quanti negli ascoltatori, a dire il vero da Bobbio. Meglio ancora. Il gioco del calcio, che appunto è anche un gioco, oltre che un business, un affare e una rappresentazione della vita, a volte offre anche degli esempi stupendi. E volevo segnalare che Lukaku è uno recidivo, perché anche ieri si è tirato indietro e ha lasciato calciare il rigore a Sanchez. Gli era già successo con Esposito. Voi pensate che uno come Ronaldo non era in campo, era in panchina. Guardi, se lei ascolta questo programma sa benissimo che io per Lukaku ho una ammirazione, anzi oggi vado con la provocazione che ho in testa da mesi e dico che secondo me l'Inter Lukaku l'ha pagato poco. Addirittura. Sì, nel senso, mi confermate il 65 più 10 di bonus? Giusto? Sono 80 totali più o meno. Sì. Io 65. Sapevo 75. Vabbè, adesso poco è un modo di dire, no? Poco è un modo di dire, e se vuoi è una provocazione fatta apposta. Però diciamo non l'ha pagato. Per il mercato pre-Covid. Esatto, per il mercato pre-Covid, bravissimo, perché oggi magari sarebbe anche diverso. Però insomma, secondo me il contributo che ha dato in questa stagione con i 25 gol. Però adesso non volevo interrompere l'ascoltatore di Bobbio. Però ieri, quindi insomma, la mia stima per Lukaku è totale. Però ieri, onestamente, era in panchina, quindi non poteva calciare quel rigore, su questo non c'è dubbio. Era già successo con Esposito. Sì, infatti. Gli aveva lasciato calciare un rigore di 17 anni. L'era in campo ieri no. Ma guardi, è un ragazzo straordinario. Io insomma anche ieri sera parlavo con un responsabile dell'area tecnica dell'Inter, e i racconti da dentro lo spogliatoio sono incredibili, sulla dedizione, sulla capacità di accogliere i compagni, sul lavorare con gli altri, quindi insomma ci sono quello che vediamo in campo, che secondo me è tantissima roba, con qualche errore dovuto anche all'energia che spende un giocatore come lui. Non sarà mai il miglior finalizzatore della storia, perché è ovvio che spende tante energie nell'aiutare i compagni, è molto generoso, e questa generosità c'è anche nello spogliatoio. Però il rigore ieri non poteva, non poteva lui, anzi credo che lui ieri avesse voglia di giocare qualche minuto in più, perché insomma ieri era un'occasione, un occhio alla classifica marcatore. Io continuo a pensare che sia una specie di Vieri 2.0, di Bobone 2.0. Sì. Mi ricorda molto Bobo. Un'ultima cosa, Fabrizio, ma Lautaro, siamo al countdown, secondo te che succede? Si va sicuramente, per come la vedo io, oltre il 7 di luglio, perché il Barcellona in questo momento non riesce a tirare su la cifra. Io credo, e mi pare di aver capito, che dal giorno successivo qualcuno dice il Barcellona temporeggia, così poi può abbassare la cifra. Io non sono d'accordo. Secondo me l'Inter la clausola è un'occasione per chi vuole comprare. Certo. Se tu non sfrutti quell'occasione, il giorno dopo una società seria, e l'Inter una società seria, ti dice benissimo, lo vuoi, un 120. Milione in più. Certo. Ragazzi, certo. Barcellona, lo diciamo spesso con Ricci, non è la squadra di qualche anno fa. Cioè non ha quelle risorse economiche. Non ha quelle. Cioè non è che arriva, tira fuori 110, 120 ma così in sciolta. Il bilancio, non c'ha le condizioni. Appunto. Però il piano B quale sarebbe, Fabrizio? Poi saluto tutti. Per l'Inter. Ho sentito parlare di un'ipotesi scambio con Griezmann, mi sembra no, Griezmann guadagna troppi soldi. Guadagna troppo Griezmann, cioè è una cosa che non mi sembra stia in piedi. La mia sensazione è che l'Inter sia dell'idea che si va avanti con Lautaro. Lautaro, anche perché secondo voi l'Inter non sa in questo momento se il Barcellona riscatterà o meno Lautaro, lo sa. Sa che non lo farà, e quindi credo che vorranno andare avanti con Lautaro. Il giorno dopo, Fabrizio, il giorno dopo, e cioè l'8 luglio, che è un lo toglie dal mercato. Partito. No, lo compri e cominci a parlare del rinnovo. Certo. È un po' la stessa cosa. È la cosa che devi fare dall'8 luglio in poi. Sicuro. Grazie ragazzi. Ciao Franco, ciao Fabrizio. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao. Allora, fermiamoci per la borsa, poi... Sì. Verona, parliamo di Verona con Andrea D'Amico. Certo. Grande realtà. A proposito, se volete intervenire, anche a salutare Pardo, che torna da noi, 800 24 00 24. Cioè. Non è che sono tornato al fronte. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta mail, riunione, mail, report periodico, mail, altra mail, riunione, prendo un caffè e mando una mail, ancora un'ultima mail. Con Meno Mail puoi recuperare almeno 2 ore al giorno. Meno Mail è una soluzione SIAV per un nuovo modo di lavorare in digitale, anche in smart working. Meno Mail, e sei smart. menomail.it. L'energia di Repower si fa sentire. Repower è efficienza energetica e mobilità elettrica per il tuo lavoro, elettricità e gas inclusi. Scegli Repower, il personal trainer dell'energia per la tua azienda. Repower. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Prima di rinnovare l'assicurazione auto, vai su prima.it e scopri se puoi risparmiare. Calcola un preventivo in 30 secondi e scegli la comodità del pagamento mensile. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Fai click su prima.it. Come prima, più di prima, t'amerò. Gli itinerari più belli d'Italia da fare in bici o a piedi. Il Sole 24 Ore è in edicola con 2 volumi dedicati a chi ama le vacanze in movimento. Passo dopo passo, pedalata dopo pedalata, alla scoperta di percorsi alla portata di tutti. Cammina Italia e pedala Italia il 30 giugno e il 7 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 11,90 € in più. Tutti convocati. Attenzione dall'altra parte, tutto solo, può ricevere Pessina che segna il gol del 3-2, un sinistro potente e preciso, e il Verona è di nuovo avanti. veramente complimenti a loro. Adesso abbiamo raggiunto, diciamo, questa quota psicologica e secondo me, comunque, conoscendo la squadra, conoscendo la nostra mentalità, continueremo a lavorare e cercheremo di fare comunque il meglio possibile da qui in avanti. Beh, pazzesco. Verone, pazzesco. Oggi, dicevo a Edoardo Lavezzari, che oggi lavora alla redazione di questo programma, parliamo del Verona, ma non tanto per far contento Barisoni, non è quello il punto. Quanto pensa, perché per Barisoni è la giornata ideale, cioè la borsa, sì, in questo momento fa più 1,83% e il Verona ha vinto, quindi per Barisoni oggi è il giorno più bello dell'anno. No, ma non tanto per quello, quanto perché il Verona sta facendo qualcosa di bestiale. Allora, diciamo, ma con chi parliamo? Con chi affrontiamo l'argomento Verona? Beh, a me è venuto in mente il principe di Custozza. Certo. Ciao Andrea D'Amico. Ciao Carlo, ciao Pier. Ciao. Potremmo parlare anche del bianco di Custozza, ma questo è un altro discorso. È materia per Oldani e per Mangia come parli. Invece il segreto qual è? Qual è il segreto di questo Hellas? Il segreto, secondo me, è il suo allenatore. L'allenatore è di una squadra allestita pescando dei jolly importanti, perché comunque la valorizzazione di Kumbulla e aver preso Rahmani e Amrabat in prestito gratuito dal Bruges e poi averli venduti così tanto, è stato veramente un cocktail perfetto. Però diciamo che Juric è il Gasperini di Verona, quindi l'acquisto più importante di questo Verona è il suo allenatore, perché vediamo che giocano senza attaccanti e vincono. Ci sono giocatori che assolutamente intercambiabili e vincono, hanno una condizione atletica invidiabile. E c'è stata la ripartenza dopo 3 mesi fermi e loro sono partiti subito come dei razzi, a parte la partita con il Napoli che è stata un po' ingenerosa nei loro confronti, però insomma è una realtà molto importante. Penso che il nuovo Verona del prossimo anno debba ripartire assolutamente dal suo allenatore. Sì, una piccola Atalanta, non a caso, perché Juric è il figlioccio tecnico di Gasperini. Possiamo parlare di scuola quasi ormai. Bene, parlavamo ieri con Perrone, che con insomma la sua fede rosso-blu ovviamente pensava a questa situazione, valutava questa situazione con molta malinconia, perché in effetti a Genova, sponda Genova, sono passati allenatori straordinari negli ultimi anni. La scuola è quella, è il calcio totale, il calcio aggressivo, è anche una ricerca estetica che però non è, secondo me, non è l'estetica come modello di vita, è una conseguenza dell'intensità del gioco della squadra, no? Assolutamente, anche perché la gente che va allo stadio Verona alla fine delle prime partite del campionato si diverte, però diciamo così che, come giustamente dici tu Pier, l'estetica è una conseguenza della performance e dove soprattutto la condizione atletica la fa da padrone. Il gesto tecnico poi a quel livello lì sono capaci tutti di farlo, il problema è tenere l'intensità della prestazione per tutta la durata della partita, certo. E quindi quando tu hai questa condizione atletica a parità di livello, anche a livello inferiore, fai la differenza. L'ha dimostrato anche quando hanno vinto in casa contro la Juventus, certo. Hanno anche un'autostima questi risultati, che anche i giovani che entrano come Kumbulla, che è un giovane cresciuto nella primavera del Verona, nei giovanili del Verona, e poi dopo fanno bella figura anche contro campioni come Ronaldo e adesso hanno... Nel supermercato Verona, al di là del fatto che se non penso che venderanno tanto volentieri, e se venderanno bene, qual è secondo te il prodotto più prelibato, quello che andrà via al prezzo più alto, che comunque insomma scatena i maggiori appetiti? Adesso Kumbulla. Ed sono un po' sfortunati che magari che è sicuramente capitato questo coronavirus, altrimenti avrebbero potuto venderlo a molto più soldi, però per fortuna hanno venduto già Rahmani a Napoli a gennaio e Amrabat per 20 milioni, perché a mio avviso in quel periodo lì Amrabat era il box to box più forte del campionato italiano. Vedi che insomma queste squadre, l'Atalanta insegna, non vengono mai smontate completamente, no? Magari cedi un pezzo qua e un pezzo là. Non vorrei che questo Verona venisse smontato e ridotto all'osso e dovesse cominciare da capo, Andrea. Carlo, sai il segreto di queste squadre, chiamiamole provinciali, dove Verona è stato l'unico a vincere lo scudetto da provinciale, fatalità nell'unico anno in cui c'era il sorteggio integrale degli arbitri. E piccola notazione di servizio. Sì, sì, è cronaca. Il segreto è non innamorarsi mai dei giocatori. Ma e sì, quindi comprarli a poco e a venderli a tanto. La gestione dinamica del parco giocatori, che altro non è che il calciomercato, è un fattore di successo imprescindibile finché rimane questo sistema. Perché non dimenticate che noi stiamo facendo una corsa in cui tutti dovrebbero avere le stesse gomme, lo stesso telaio, le stesse regole, ma così non è, perché stanno correndo delle macchine che hanno un budget 100 con delle macchine che hanno un budget 10. Lo so, infatti i Gran Premi non li vince la Brabham, li vince sempre la Mercedes, però posso dire, Pierluigi, c'è ancora come in ghiacciolo, amico. Beh, però ha ragione. Non bisogna mai innamorarsi dei giocatori. Non bisogna mai innamorarsi dei giocatori, e la conseguenza di tutto questo è che bisogna saperli vendere bene. C'è giustamente molta enfasi sul fatto di comprare bene nel calciomercato, che è fondamentale, ma è fondamentale anche vendere bene, vendere al momento giusto. Ha ragione Andrea, nel senso che poi comunque alla fine la gestione oculata è una gestione nella quale appunto vendi i giocatori nel momento in cui non li vendi tutti insieme, non smantelli tutto. Ci sono delle società, ieri parlavamo del Genoa, che secondo me hanno fatto troppo trading in questi anni. No? Infatti il rischio è quello. L'Atalanta ha venduto un pezzo qua, uno là. La continuità è importante. Anche l'Atalanta stessa, appunto, con tutto che insomma le offerte sono arrivate e chissà quante ne continuano ad arrivare, magari si toglie un paio di pezzi importanti a stagione, però sa già chi andare a prendere al posto loro. E... Ma è quello il lavoro che devono fare i direttori sportivi. Finché ci sono le competizioni, tu devi mettere in preventivo che se ti arrivano anche 11 richieste sopra una determinata cifra, tu li devi vendere tutti. Non dimentichiamo, ragazzi, che il Verona, allenato da Malesani, che concluse il girone d'andata in zona Europa League, o comunque Coppa UEFA, come si chiamava, perché adesso quei nomi... Oddo Girardino, quella squadra lì, dice. Oddo, Camoranesi, Girardino. E via discorrendo. Sono retrocessi alla fine del campionato. Vero. E poi sono diventati campioni del mondo questi giocatori. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi come oggi, con questo sistema sportivo economico, la retrocessione equivale ad un fallimento economico. No, non c'è dubbio. Ma infatti per quello che però non devi eccedere col trading, ha ragione Pierre, come ha fatto il Genoa, che quest'anno rischia brutto, anche se pure quest'anno. Ma se non fai il trading non tornano i numeri. No, certo. È l'eccesso di trading, ma scusa, ragazzi, dovrebbe essere il contrario. Cioè, dovrebbe esserci un handicap sportivo. Le grandi che sono quotate in borsa, che hanno comunque proprietà importanti, dovrebbero ricevere diritti televisivi inversamente proporzionali alla loro grandezza. Invece li ricevono direttamente proporzionali, cioè più sono grandi più ricevono soldi, e poi devono fare il campionato con quelle che invece, essendo piccole, ricevono pochi soldi. Sì, Andrea, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, confrontando il modello europeo con quello americano. Il modello americano è simile a quello che dici tu. La franchigia. Esatto. E questo consentirebbe agli imprenditori che sono appassionati di calcio di fare un business plan, visto che siamo radio parla di economia tutti i giorni, che permetta determinati investimenti, determinati ammortamenti, senza il rischio di venire vanificato. Però è una rivoluzione copernicana. Esatto, l'abbiamo detto mille volte, è il sistema americano che considera l'equilibrio e le condizioni, le pari condizioni o quasi pari condizioni fra tutte le franchigie, è un requisito fondamentale. Ma è anche il sistema europeo, perché ormai qual è il campionato più importante in Europa? La Champions League. La Champions League crea attenzione soltanto a vincere. Per chi vince? Non ci sono retrocessioni. Eppure è il campionato più seguito, che ha più seguito di sponsor, di tifosi. La Champions League, Andrea, va nella direzione giusta, perché più vai avanti e più vinci e più ti danno i soldi. Quindi è comunque un meccanismo che divarica la distanza fra le grandi e le piccole, mentre il modello sportivo americano è un modello che tende a riequilibrare con il draft, con il salary cap e con tutta una serie di meccanismi il budget delle diverse franchigie. È proprio, ha ragione Carlo, è proprio una rivoluzione copernicana, cioè sono due modi completamente diversi di vedere lo sport. Ormai è indispensabile, perché altrimenti ogni anno vedremo delle società che retrocedono e falliscono. Ciao, una Andrea. Volta fallisce il Palermo, una volta fallisce certo, Bari, una volta fallisce il Napoli. Cioè, non dimentichiamo che De Laurentiis ha preso il Napoli e il Bari dal fallimento. Ciao Andrea, grazie. Un abbraccio ragazzi. Ciao Andrea, ciao, allora ciao. Fermiamoci per il traffico, poi c'è Massimo da Roma, ascoltatore nero già da un po' per la verità, e poi parleremo della partitissima di oggi, perché cavolo, Atalanta-Napoli oggi, è meraviglioso. Massimo che c'è in questo momento che è calcio italiano. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Partiti con 3 vittorie e questo è stato fondamentale per la classifica, il morale, per tutto, però ogni partita bisogna resettare e ripartire da zero, riaffrontarla, è una situazione uguale per tutti, è vero, ma comunque complicata per tutti quanti. Beh, il Napoli è una grande squadra, semmai era un po' strano l'andamento precedente. In questo momento sta facendo molto bene, sta dimostrando tutto il suo valore, ma è una squadra che pensavamo un po' tutti quanti all'inizio della stagione che potesse lottare per lo scudetto, per il campionato, insieme alla Juventus, insieme alla Lazio, all'Inter. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Ciao. Allora, un saluto a tutti. Volevo fare una domanda sulla Juventus e soprattutto, insomma, chiedervi se, come penso io, la Juventus in questo momento ha dei grandi margini di miglioramento, visto che comunque l'ultima partita con il Genoa è stata una partita, secondo me, perfetta tatticamente, perfetta come scelta di giocatori, e sto vedendo la stessa Juve che aveva chiuso, diciamo, la prima parte del campionato con l'Inter, cioè forse la migliore Juve di Sarri. Siccome sono piovute tante critiche a Sarri, addirittura si è scritto in alcuni giornali che la Juve era finita dopo la partita persa col Napoli, credo invece che, insomma, stando le ultime partite, insomma, molti si dovrebbero ricredere. Spero comunque da juventino che la Juve, insomma, possa ancora di più migliorare. Ma soprattutto volevo fare una considerazione in generale sulla Champions, oltre a questa domanda qui. Cioè, secondo voi, a Lisbona, visto che per noi tifosi speriamo di arrivarci, la Juve è una delle cose più belle seguire la squadra negli stadi europei, Lisbona sarebbe fantastico, chiedevo se secondo voi ci sarà un'apertura dell'UEFA al pubblico per la Final Eight, indipendentemente poi se ci arriveremo o no, facendo le cose ce l'auguriamo, perché seguire la squadra se vuole, cioè, se vuole può andare con, se vuole può andare con Pierluigi Pardo che andrà, speriamo, no? speriamo, a fare speriamo, tele speriamo. Cronache. Ma no, al di là di tutto speriamo veramente che ci sia questa apertura, perché a parte che Lisbona è bellissima, quindi è un motivo ulteriore per andare a seguire eventualmente le italiane. Insomma, credo che la situazione sia in continua evoluzione. Se noi sarebbe divertente, insomma, verificare le cose che sono state dette, diversi indirizzi, diversi orientamenti nelle varie settimane. Insomma, abbiamo attraversato degli stati psicologici e reali incredibili e anche molto diversi. Oggi c'è una sorta di normalità, anche se tutti i giorni alle 18 sentiamo il comunicato, il bollettino. Mi viene da pensare, lo dico facendo 1000 scongiuri, che 2 settimane fa è arrivata, anzi adesso 15 giorni fa c'è stata quella finale di Coppa Italia vinta dal Napoli con la gente in giro, e insomma, guardando i dati della Campania sui contagi, non diciamo niente, ma insomma sembrerebbe incoraggiante il fatto che non si vede ad oggi un minimo segnale, no? Quindi me lo auguro. Manco per quanto riguarda la Juve, sa, noi commentiamo quello che vediamo. Io credo che quella sconfitta ai calci di rigore in Coppa Italia sia, è anche possibile che sia stato uno stimolo per la Juve, ne parlavo con Ciro Ferraro nei giorni immediatamente precedenti alla partita, insomma, può essere stato anche uno schiaffo tra virgolette istruttivo, però anche se la Juve l'ho vista bene nel secondo tempo con il Genoa, l'ho vista bene nel secondo tempo contro il Genoa, non l'ho vista bene con Lecce, no. L'ho vista bene col Bologna, insomma, secondo me ha sicuramente dei margini di miglioramento. Non li avesse, sarebbe preoccupante. Antonio Giordano, ciao. Eccomi qua. Eccolo là. Parto. Senti, Atalanta, dicevo, Atalanta-Napoli è il meglio che c'è in questo momento. Peccato soltanto che non conti un po' di più per la classifica. Credo che conti relativamente a meno di clamorose sorprese, come si diceva una volta, insomma, ma la matematica non sarà un'opinione, 12 punti sono tanti, seppure dovessero diventare 9 resterebbero tanti. Ma sì. Onestamente, però godiamoci la bellezza di tutte e due. L'Atalanta credo che sia la squadra che maggiormente ti prende quando vedi una partita, cioè sai sempre che può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. E il Napoli ha trovato degli equilibri che onestamente era difficile pensare potesse scorgere 4 mesi fa, 6 mesi fa. Secondo te può far saltare il banco il Napoli? Secondo me Atalanta sembra ingiocabile in questo momento. Per me è una delle poche squadre che possono mettere in difficoltà l'Atalanta in questo momento. Non so che ne pensa Antonio. Penso come te. Che la cosa mi preoccupa. No, poi è bellissimo pensare che comunque sono 4-5. Parlavamo, certo. Parlavamo prima di Champions col Pù, con la gente, i tifosi. La vedo duretta, manco un mese e mezzo, ma vediamo. Però è bellissimo pensare che quelle due di stasera, cioè le due più belle in questo momento, le vedremo in Europa, nell'Europa maggiore, con quella faccia un po' così da underdog, il che mi attizza da morire. Mi incuriosisce molto l'8 agosto, devo dire la verità. Sì. Sono curioso di vedere cosa possa accadere al Camp Nou contro una squadra che mi sembra in crisi, ma che comunque ha sempre Messi, e non solo Messi, e che ho visto in televisione veramente recita un calcio che non... Si potesse giocarla domani quella partita. Questo volevo introdurre ora, questo elemento, perché io credo che vedremo anche l'andamento, il risultato della partita di stasera, ma c'è la possibilità concreta che il Napoli possa decidere magari da domani in poi di orientare la preparazione sull'8 agosto, perché a questo punto l'obiettivo europeo è stato raggiunto, con la Coppa Italia vinta, se non ci dovessero essere margini di poter centrare il quarto posto, e onestamente è difficile, cioè servirebbe un'impresa stasera e sarebbe comunque a meno 9, insomma, francamente la vedo complicatissima. Beh, forse dovrebbe scoppiare l'Atalanta, non lo vedo forse possibile. Forse a cominciare a ragionare sul fatto di fare una preparazione per arrivare in condizione a inizio agosto è la cosa da fare. Prendendosi a questo punto il piccolo vantaggio che invece il Barcellona è in una situazione in cui deve ancora lottare per il campionato. Si sta scornando con Real per il campionato, Antonio. Sì, devo dire che Barcellona è messo male in questo momento dal punto di vista aritmetico e anche ambientale, mi sembra. Ho visto che il papà di Griezmann non l'ha mandato a dire, onestamente c'è questa No, ma volano mondo. Gli stracci, però è giusto quanto dice Pierluigi, cioè due conti magari sull'orientare la preparazione verso quel giorno lì non sarebbe una brutta idea. Sì, una turnazione un po' più ampia, anche se io sono contro a questo tipo di orientamento, perché ti tolgono poi, come dire, delle motivazioni che invece devono essere sempre vive. Da qui all'8 agosto. È chiaro che devi distribuire diversamente i carichi di lavoro. Esatto, questo. E devi soprattutto distribuire il minutaggio dei giocatori. Devi arrivarci quanto più fresco possibile a Barcellona. Tanto stasera ci divertiamo. Grazie Antonio, a presto. Grazie ciao, a te. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Vabbè Pierluigi, ti lascio andare di là con Oldani, avete da fare. Sì, Oldani, ho fatto il libro con le ricette. Ricette. Anche io ho fatto dare un piccolo contributo, 3 ricette di Mangia come parli. Ma dopo mi fate la dedica. Ma più che la dedica io gli farei cucinare qualcosa, insomma, cioè il libro, bello il libro, bella bello la dedica, libro, però ecco, voglio bene. Meglio la ricetta. Però. Domani sentiamo al telefono. Sì. Però sì. Ti aspetto presto. Direi di sì. Dammi questa emozione. Sì, ma io sono fantastico. Sono sempre qua. Ciao a tutti, grazie a Lorenzo Nespoli, a Valeria Bernardi, oltre a Gianmarco Ferronato, Edoardo Lavezzari. Ciao a tutti, a domani. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.